Bug. Well, coglione! Tonto. Giocate con quella bagassa, mamma tua. Perché stanotte già ne dorme tu e tua madre, capito? Che io devo ricevere la tua fante, non devo sentire le tue schifezze. Hai capito, brutto coglione? Che quando rompe coglione a casa tua, vero? Fino cioè tu e quella grande bagassa, mamma tua, hai capito? Che mi hai rotto i coglioni! Fino a che stanotte già ne dorme tu, hai capito? Quella è tua madre lo fai. Cagioca, che stanotte già ne dorme.